io cito dei dati che la riguardano e lei certo non è tra i più presenti, la percentuale è del 65%, però come? La percentuale di presenza credo nel 2011 viene data al 65%, che la mette un po' in basso tra i parlamentari, gli europarlamentari italiani. Io le do subito la spiegazione. Sì. Se, come dire, fossi assente, là c'è una sanzione pecuniaria seria e io non ho penalizzazione pecuniaria. Nessuna multa. In questa circostanza, che i mezzi di trasporto dall'Italia a Strasburgo sono di una difficoltà rara. Normalmente bisogna prendere due voli, c'è un solo volo diretto da Roma che rientra il mercoledì, parte il lunedì e rientra il mercoledì, e la seduta, che poi diventa oggetto di statistica, si chiude il giovedì a mezzogiorno, e io salto, perché se mi fermassi fino a mezzogiorno sarei costretto per rientrare a fare un giro per Parigi e poi arrivare a Roma. Ma scusi, ma ce l'avranno anche gli altri questo problema, no? O ce l'avranno anche gli altri europarlamentari questo problema, che però hanno delle percentuali più alte? Non comporta una riduzione dell'impegno. Quindi lei ammette che ci sia un po'. Non siamo militari. Abbiamo l'intelligenza per partecipare. Ecco, però io non faccio parte delle commissioni di gestione, io faccio parte della commissione esteri. E sono settimane che io chiedo di fare una discussione sulla politica estera dell'Europa, non si fa. Però nella sua partecipazione al voto viene definito dall'alto verso il basso, cioè ottimo, buono, sufficiente, scarso, e lei però è scarsissimo, non vota, demita, che fa? No, non è vero, se fosse vero questo dovrei avere la decurtazione sull'indennità. Quello mai, decurtazione vuol dire mai. Che è sufficiente? In che senso è sufficiente? Lo stipendio o intende la partecipazione? La presenza. La presenza.